Grazie, buonasera. Ma il Trattato di Lisbona, appunto, appena entrato in vigore, ha due novità fondamentali che riguardano l'argomento dei diritti fondamentali, quindi si può essere chiaro. L'uno è quello di dare finalmente una veste giuridica vincolante alla Carta dei diritti dell'Unione Europea, la cosiddetta Carta di Nizza, proclamata nel 2000, come ricordate, come documento politico, come appunto, carta di impegno politico, ma non con effetto giuridicamente vincolante, invece che adesso è diventato un annesso ai trattati, quindi con efficacia vincolante. E la seconda novità è la previsione, anche questa derivante dal vecchio trattato costituzionale poi non ratificato, no? La previsione dell'adesione dell'Unione Europea in quanto tale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. La Convenzione Europea del 1950, quella promossa dal Consiglio d'Europa e alla quale già aderiscono oggi 47 Stati membri, non solo dell'Europa dei 27 evidentemente, ma anche gli altri Stati europei, convenzione alla quale fino adesso la Unione Europea era formalmente estranea, diventerebbe, invece l'Unione Europea diventerebbe un membro, non si può neanche dire uno Stato membro perché non è uno Stato, ma comunque un nuovo membro della Convenzione, con gli effetti che potremmo vedere. Allora, per quanto riguarda la prima novità, e cioè l'attribuzione di efficacia giuridicamente vincolante, voi mi sentite anche da lontano? Non ho problemi, devo parlare in piedi? Non credo, spero di non. Perché no, perché c'è questo apparecchio davanti che fa un po' la schermatura, ma insomma. Non so se dobbiamo. No, se volete, preferite che parli in piedi, lo faccio anche. Ma. Va bene, perfetto. Cioè, per quanto riguarda la prima novità, cioè l'attribuzione di efficacia giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti, dal punto di vista, come dire, sostanziale, cioè del merito dei diritti garantiti, delle modalità della loro protezione, si potrebbe dire che è una novità relativa, perché i diritti previsti dalla Carta di Nizza sono fondamentalmente gli stessi diritti già sanciti, oltre che dalle Costituzioni nazionali, più o meno di tutti gli Stati membri, anche dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dalle quelle che si usa a chiamare le tradizioni costituzionali comuni dei Paesi membri dell'Unione. In quanto tali, cioè come diritti previsti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, erano già da tempo stati riconosciuti questi diritti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea di Lussemburgo come principi generali del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 6 del Trattato dell'Unione, che appunto dice che l'Unione si ispira a questi principi. Quindi, da un punto di vista sostanziale, non si può dire che entrano in campo dei diritti che mentre prima ne erano fuori. In realtà già l'Unione si fondava su questi principi di diritto e in particolare sui diritti così come formulati e garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, oltre che appunto dalle tradizioni comuni degli Stati. E infatti la Carta di Nizza, che pur non era fino ad oggi un testo giuridicamente vincolante, però di fatto veniva già utilizzata da molte corti, come appunto si può vedere attraverso la giurisprudenza che è documentata, la giurisprudenza dei vari paesi, che è documentata nell'osservatorio di cui parlava la dottoressa Paciotti, era già di fatto utilizzata come riferimento nell'affermare l'esistenza di certi diritti o la configurazione di certi diritti. Certamente l'entrata in vigore, diciamo così, come carta vincolante di una nuova Carta dei diritti potrà portare degli interessanti sviluppi, degli interessanti approfondimenti, perché per esempio nella Carta di Nizza non troviamo delle formulazioni nuove, non è tanto troviamo diritti nuovi, ma delle formulazioni nuove che talvolta potrebbero portare appunto degli sviluppi interessanti. È una carta, come è noto, più ricca della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, è nata nel 50 e sia pure arricchita da protocolli successivi, ancora limitata ad un'area, ad una, diciamo, un gruppo di diritti relativamente ben determinati. La Carta di Nizza va più in là, per esempio, fare solo degli esempi, la Carta di Nizza parla dei diritti sindacali, dei diritti di contrattazione o dei diritti del lavoro, articoli 30-32, della sicurezza e dell'assistenza sociale, settore questo dei diritti sociali che, come noto, invece è fino adesso rimasto sostanzialmente estraneo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e quindi alla relativa giurisprudenza, ancorché in parte attraverso la protezione della proprietà anche questi diritti siano entrati nella giurisprudenza europea. Beh, insomma, dicevo, quindi qualche sviluppo si può immaginare. Per esempio, faccio un esempio solo per chi coltivi il diritto penale può avere un certo rilievo. Nella Carta di Nizza non solo si ribadisce il tradizionale principio per cui la legge penale non può essere retroattiva, nel senso che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore, che fosse in vigore nel momento in cui il fatto è stato commesso, ma si afferma anche l'ulteriore principio della cosiddetta retroattività della legge più mite, nel senso che dice che se dopo la commissione del fatto entra in vigore una nuova legge che prevede una pena meno severa o addirittura abolisce la pena, cioè si deve applicare la legge successiva, si deve applicare anche ai fatti passati la legge successiva. Principio questo che nel nostro diritto penale, come è noto, è accolto dal codice penale, ma è accolto a livello di legislazione ordinaria, non è un principio costituzionale. Tant'è vero che la Corte Costituzionale ha espressamente escluso che si desumesse dalla Costituzione l'obbligo di applicare ai fatti passati la legge penale sopravvenuta più mite, meno severa. Ecco, invece poi la Carta di Nizza sembrerebbe affermare questo principio in termini vincolanti, quindi in termini potremmo dire costituzionali. E qui potranno sorgere anche problemi, perché la nostra Corte, diciamo, sempre per stare su questo piccolissimo excursus relativo a questo tema, la nostra Corte Costituzionale ha sempre escluso che avesse basi costituzionali. La Corte di Giustizia della Comunità Europea, in una recente sentenza di qualche anno fa, un po' incidentalmente invece ha ritenuto che questo principio dell'applicazione retroattiva della legge più mite abbia radici costituzionali facendo parte delle tradizioni comuni degli stati membri, e successivamente la nostra Corte Costituzionale ha, diciamo, in qualche modo recepito questa idea dicendo sì, è un principio che ha valore costituzionale ma è derogabile. Non è detto che sempre debba questo accadere, perché può essere anche derogata in base a previsioni legislative che si fondino su certi, diciamo, interessi pubblici ben specifici e quindi che abbiano una particolare giustificazione. Ecco un tema su cui per esempio potrà nascere un dibattito: l'entrata in vigore della Carta di Nizza consentirà o obbligherà a in qualche modo rivedere la giurisprudenza su questo tema. Ho fatto questo esempio, ma insomma è solo appunto a titolo esemplificativo. Quindi certamente per i giuristi ci sarà da lavorare, per così dire, insomma, intorno a questi nuovi testi. Ma possiamo dire che in generale, per l'appunto, la Carta di Nizza non porta nuovi diritti per i cittadini europei, ma porta una elencazione di diritti e una garanzia di diritti che sono fondamentalmente gli stessi che già nelle Costituzioni nazionali e nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, alla quale tutti gli Stati membri dell'Unione aderiscono, prevedeva. Quello che fa specificamente dal punto di vista giuridico la Carta dei Diritti dell'Unione Europea, che oggi appunto entra a far parte a pieno titolo e ufficialmente del diritto dell'Unione Europea, è di consolidare, diciamo, il posto e la garanzia dei diritti fondamentali nell'ordinamento dell'Unione. L'Unione, come è noto, è un ordinamento giuridico. Il diritto comunitario si considera come un ordinamento giuridico, poi secondo delle visioni lo si considera come un ordinamento giuridico separato e distinto da quelli nazionali o come un ordinamento invece che tende ad assorbire quelli nazionali, ma per noi gli italiani siamo ancora, diciamo, ancorati fondamentalmente alla visione dualistica, è un ordinamento distinto, ancorché coordinato con quello nazionale. Ecco, in questo ordinamento i diritti fondamentali fino ad oggi non è che fossero estranei, ignorati, perché appunto l'articolo 6 del Trattato dell'Unione, se non altro, diceva che l'Unione si ispira ai principi dei diritti fondamentali e al rispetto dei diritti fondamentali così come garantiti nelle tradizioni comuni dei paesi e nella Convenzione Europea, ma oggi invece quei diritti entrano, diciamo, a vele spiegate e in prima persona a far parte dei diritti del diritto dell'Unione, del diritto, quello che noi chiamiamo il diritto comunitario. E direi entra a far parte un po' come potremmo dire un livello costituzionale del diritto comunitario, perché non abbiamo noi formalmente oggi una Costituzione, come è noto, dell'Unione Europea, essendo fallito il tentativo di darla con il trattato precedente, non ratificato, ma è indubbio che vi siano dei principi e delle norme di livello costituzionale dell'Unione Europea, sono quelle dei trattati fondamentalmente e oggi anche quelle della Carta dei diritti. Ma direi appunto, la prima cosa da sottolineare è che l'entrata in vigore come testo giuridico della Carta di Nizza vale a collocare definitivamente e stabilmente i diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario. Infatti l'articolo 51 della stessa Carta dice chiaramente che la Carta si applica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Quindi il riferimento della Carta dei diritti dell'Unione Europea è all'ordinamento comunitario. Ordinamento comunitario che ha diretta espressione nell'attività giuridica delle istituzioni dell'Unione e nell'attività giuridica degli Stati membri, laddove gli Stati membri operano per attuare il diritto dell'Unione. Ecco, naturalmente questo non significa che questa novità non possa avere riflessi e conseguenze anche nei rapporti con gli altri ordinamenti, in particolare con gli ordinamenti nazionali che si coordinano con l'ordinamento comunitario. Però di per sé, se appunto manteniamo ferma questa che è l'impostazione che attualmente la nostra giurisprudenza ferma, cioè dell'esistenza di due ordinamenti distinti, ancorché coordinati, quello nazionale e quello comunitario, dobbiamo dire che sul piano giuridico, appunto, l'entrata in vigore della Carta dei diritti dell'Unione Europea riguarda l'ordinamento comunitario. Naturalmente è un ordinamento comunitario che appunto è non solo coesiste, sia pur distinto, ma coesiste, ma che è coordinato con gli ordinamenti nazionali. E i soggetti, perché è coordinato? Perché i soggetti sono gli stessi. L'ordinamento comunitario si rivolge agli stessi soggetti, non è un ordinamento che abbia come soggetti gli stati, ha come soggetti le persone che sono soggetti degli ordinamenti nazionali, e quindi gli stessi individui sono contemporaneamente soggetti del diritto interno e soggetti del diritto comunitario, soggetti dell'uno e dell'altro ordinamento. E i diritti di cui si parla sono poi fondamentalmente gli stessi, perché sono sempre i diritti della persona, i diritti fondamentali sono i diritti della persona. E allora la prima domanda è: ma si può immaginare che esistano un sistema di diritti e quindi anche un complesso di standard di protezione di diritti diversi tra ordinamento interno e ordinamento comunitario? Salvo vedere le modalità del coordinamento, si può immaginare? Beh, di per sé astrattamente nulla vieta, trattandosi di due ordinamenti diversi possono esserci anche potrebbero esserci diritti diversi, potrebbero esserci diritti diversi standard, però tenendo conto che si tratta di due ordinamenti che hanno gli stessi soggetti, quindi alla fine in cui le interferenze e gli intrecci sono inevitabili. Come forse sapete, la nostra giurisprudenza costituzionale nell'impostare questi rapporti tra ordinamenti distinti ma coordinati ha sempre affermato che appunto l'ordinamento comunitario, l'ordinamento esterno, è diverso da quello nazionale, che però le norme e gli atti giuridici dell'ordinamento comunitario entrano nell'ordinamento nazionale in forza della cessione di sovranità, che nel nostro caso sulla base dell'articolo 11 della Costituzione è stata fatta, e quindi entrano con una forza propria in quanto direttamente operanti nei confronti dei soggetti e addirittura in una posizione di supremazia, cioè di prevalenza sul diritto nazionale. L'unica riserva che, come è noto, la nostra giurisprudenza costituzionale, come la giurisprudenza di altri stati europei, hanno portato è di dire questo ingresso di atti e di norme che provengono da un ordinamento esterno e che vengono a condizionare la vita giuridica anche nell'ordinamento interno. Questo ingresso, che è fondato sull'articolo 11, e che è l'ingresso di un ordinamento che non solo si impone direttamente, ma che anche prevale su quello nazionale, ha un limite, cioè il momento in cui risultasse che attraverso questo ingresso dall'esterno si dovesse verificare nel nostro ambito nazionale una violazione dei principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in questo momento questo coordinamento, questo ingresso libero, per così dire, del diritto comunitario troverebbe un limite, troverebbe un momento di arresto, cioè in quel momento entrerebbe in crisi il coordinamento fra i due ordinamenti, non si potrebbe più, ci potrebbe essere una barriera, insomma, opposta all'ingresso nel nostro ordinamento di norme, di atti giuridici, appunto contrastanti con i principi supremi del nostro ordinamento, che non potrebbero quindi avere piena cittadinanza e piena attuazione. Questo è il cosiddetto controlimite. Se c'è un di norma, l'ordinamento comunitario, pur distinto, entra e occupa degli spazi lasciati liberi dall'ordinamento nazionale, prevale sull'ordinamento nazionale, ma con questo controlimite. Questo controlimite dei principi supremi è stato, insomma, creato un po' dalla giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale, creato, lo voglio ricordare, originariamente non pensando al diritto comunitario, ma pensando ad altri fenomeni di ingresso di norme e di atti provenienti da ordinamenti esterni. Cioè la prima affermazione dell'esistenza di questo controlimite risale ancora al 1971, sta in sentenze che si ponevano il problema se e in che misura norme di un patto para-internazionale, cioè il concordato lateranense tra Stato e Chiesa Cattolica, stipulato a suo tempo espressamente richiamato dalla Costituzione italiana, all'articolo 7, se in che misura, diciamo, queste norme, questi atti provenienti da un ordinamento esterno, quello appunto concordatario, potessero entrare nel nostro ordinamento. E la Corte disse, proprio in quell'occasione, è vero che l'articolo 7 della Costituzione, prevedendo che i rapporti fra lo Stato e la Chiesa Cattolica sono relati ai patti lateranensi, ammette l'ingresso nel nostro ordinamento di norme e di atti che provengono da quello dell'altro ordinamento esterno, ma quell'ordinamento esterno non potrebbe mai violare i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale. E quindi, diciamo, affermò per la prima volta nei confronti del concordato l'esistenza di questo controlimite. Lo stesso controlimite poi la Corte lo ha utilizzato quando si è posto il problema dei rapporti con l'ordinamento comunitario, con l'ordinamento europeo. Anche qui poi c'è un ordinamento esterno che non solo è abilitato e richiamato, ma è che ha questa forza, diciamo, di prevalenza, questa posizione di prevalenza sull'ordinamento nazionale, ma comunque contro i principi supremi. Questo per quanto riguarda, in generale le modalità del rapporto tra i due ordinamenti. Resta il fatto che i due ordinamenti non hanno lo stesso ambito di applicazione. Cioè, l'ordinamento comunitario entra e occupa gli spazi, i rapporti giuridici che adesso sono lasciati dai trattati europei. Quindi l'ordinamento nazionale, diciamo, è un ordinamento che in certi campi si ritira a favore dell'ordinamento europeo e comunitario, ma rimane invece negli altri campi, in quelli che non sono demandati dai trattati all'Europa, rimane l'ordinamento nazionale, così come la prima. E quindi, diciamo, potremmo dire, fuori del campo del diritto comunitario, del campo demandato dai trattati al diritto comunitario, ciò che accade nell'ordinamento comunitario non produce direttamente effetti, è indifferente rispetto all'ordinamento nazionale. Il che, in pratica, cosa vuol dire? In un campo estraneo al diritto comunitario, qualunque novità intervenga nell'ordinamento comunitario non ha diretti riflessi, quindi mai si potrebbe dire in un campo estraneo, ripeto, all'ordinamento comunitario, in campo in cui i trattati non hanno rimesso alcun potere alle istituzioni europee, non si potrebbe mai invocare la Carta di Nizza per metterla a confronto col diritto nazionale, perché la Carta di Nizza riguarda l'ordinamento comunitario, appunto. Naturalmente il fatto che esistano, sono due ordinamenti, e non sono due ordinamenti, come dire, soltanto nel senso di un dal punto di vista statico, ma sono due ordinamenti ciascuno dei quali vive, produce nuovo diritto continuamente, quindi esistono quindi poteri normativi nazionali e poteri normativi comunitari. E quindi le norme dell'ordinamento comunitario possono essere diverse dalle norme dell'ordinamento prodotte nell'ordinamento interno. Ecco, in questo senso le norme dell'ordinamento comunitario risentiranno necessariamente del fatto che nell'ordinamento comunitario si impone questa nuova categoria dei diritti fondamentali espressamente previsti ed espressamente garantiti dalla Carta. Nel campo degli atti normativi interni, dove l'ordinamento interno è, diciamo, immune da questa contaminazione con l'ordinamento comunitario, restano le cose come prima e i diritti sono quelli garantiti dalla Costituzione. Ecco, quindi potrebbero esserci norme diverse sui diritti nell'uno e nell'altro ordinamento. Potrebbero esserci norme diverse, cosa significa? Che, dunque, fermo restando che i diritti sono gli stessi, i diritti sono sempre quelli, però la materia dei diritti fondamentali in cosa consiste? Esiste un diritto, viene proclamato un diritto, e poi però le norme che prevedono questi diritti prevedono anche le possibilità di limitarli, le possibilità di disciplinare l'esercizio. Voi prendete anche la Carta di Nizza, ma insomma tutte le carte dei diritti, compresa la Costituzione, trovate l'affermazione di un diritto e poi le clausole che impongono o consentono di limitare, quindi che danno fondamento ad atti normativi che incidono nel campo dei diritti, non potendo negarli evidentemente, ma potendo conformarli, potendo configurarne l'esercizio e anche individuarne dei limiti. Per esempio, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è composta di norme che sono tipicamente formulate in questo modo. Tutti hanno diritto di, e poi gli Stati membri possono limitare questi diritti soltanto a certe condizioni, con certe procedure e dentro certi limiti. Quindi la tematica dei diritti è la tematica dell'esistenza dei diritti, ma anche dell'esistenza dei limiti dei diritti. Quindi è qua che possono venire in campo le diversità fra ordinamenti, quando si tratta di disciplinare l'esercizio dei diritti, quando si tratta quindi di stabilirne anche i limiti. E i limiti potrebbero quindi essere diversi nell'uno e nell'altro ordinamento. Anche qua voglio fare un esempio soltanto, sempre in materia penale, perché poi è una materia forse più delicata. Nell'accordo recente sul mandato d'arresto europeo si prevedono tutta una serie di meccanismi perché si riconosca automaticamente un ordine di arresto emanato dall'autorità di uno Stato membro anche negli altri Stati membri, e c'è questo mutuo riconoscimento. Ecco, naturalmente l'arresto è una misura che incide sui diritti, incide sul primo dei diritti della libertà personale, che è garantita dalla Costituzione nel nostro ordinamento, che è garantita dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo a livello internazionale, che è garantita anche dal diritto dell'Unione già prima, perché appunto si ispirava alle tradizioni comuni degli Stati membri, ma tanto più oggi perché anche questa è uno dei diritti fondamentali di cui parla la Carta dei diritti dell'Unione. E però laddove si parla dei limiti di questi diritti ci possono essere delle differenze. Ad esempio, il nostro articolo 13 della Costituzione prevede che tra le varie norme che riguardano la libertà personale, prevede che la carcerazione preventiva, cioè la detenzione in attesa di giudizio prima della condanna definitiva, sia ammessa, ma debba avere dei limiti temporali. Cioè l'articolo 13 dice che la legge fissa la durata massima della carcerazione preventiva. Infatti il nostro diritto processuale è tutto ispirato a questa idea, esistono tutta una serie di limiti temporali di durata massima consentita della detenzione in attesa di giudizio, della carcerazione preventiva. Non è così in altri ordinamenti, in tanti altri ordinamenti. In altri ordinamenti, dove pure è garantita la libertà personale, la garanzia non è prevista attraverso una durata massima fissata nella legge, ma è prevista sancendo dei meccanismi di revisione periodica della carcerazione preventiva. Quindi non può avere una durata indeterminata e affidata alla semplice discrezione o alla durata del processo o alla discrezione delle autorità giudiziarie, ma ci deve essere una costante attualizzazione delle ragioni che giustificano la carcerazione preventiva. Sono due modalità diverse di regolare lo stesso diritto. In tutti e due i casi si tutela la libertà personale, però un conto è tutelarla dicendo che la carcerazione preventiva è ammessa, ma la legge deve fissare un termine massimo oltre il quale comunque viene meno. E un altro modo è quello di dire che la carcerazione preventiva è ammessa, ma deve essere continuamente sottoposta a revisione per valutarne la perdurante giustificazione. Non so nemmeno quale sia poi la norma più garantista. Uno potrebbe dire la prima, potrebbe dire la seconda, adesso non è questo il problema. Però sono due modalità diverse di garantire lo stesso diritto, di disciplinare lo stesso diritto. Ecco, allora, trattandosi di due ordinamenti diversi, può accadere che ci siano modalità diverse di garantire questi diritti. E quindi potrebbe essere che nell'ordinamento comunitario, anzi è così, nell'ordinamento comunitario si accoglie una visione più, come dire, flessibile, più elastica, per cui è sufficiente che vi sia una qualche revisione periodica, insomma, l'attualizzazione costante delle ragioni che giustificano la carcerazione preventiva. E la stessa cosa non è da noi. E questo, per esempio, questo fenomeno ha prodotto qualche problema da noi quando i nostri giudici si sono posti il problema. Se la disciplina del mandato d'arresto europeo, che dice che si deve rispettare le garanzie della libertà personale, poteva dare luogo all'attuazione in Italia di un ordine di esecuzione di carcerazione preventiva emesso nell'ambito di un ordinamento che non prevede il limite massimo temporale, ma che invece prevede modalità di garanzia diverse attraverso la revisione dell'ordine di carcerazione. E la conclusione è stata che si poteva, che nell'ordinamento europeo questo era consentito, e quindi che in sostanza si dà esecuzione in Italia a una misura di carcerazione, si può dare esecuzione in Italia a una misura di carcerazione preventiva che risponde ai criteri, alla conformazione non del nostro ordinamento e della nostra Costituzione, ma a quella dell'ordinamento, in questo caso dell'ordinamento di un altro paese appartenente all'Unione. Ho fatto questo esempio per dire come possono configurarsi queste diversità nel campo dei diritti, che sono sempre gli stessi. Le diversità possono riguardare soprattutto i modi di imporre e di determinare i limiti e le modalità di esercizio dei diritti. Questo dal punto di vista sostanziale, ma se ci mettiamo dal punto di vista del cittadino, cioè il cittadino al di là dei rapporti fra ordinamenti sa di essere soggetto a una serie di autorità, che possono essere autorità nazionali o sovranazionali, non importa, ma insomma, la sua posizione è sempre la stessa, e quindi ritiene giustamente di poter vantare sempre gli stessi diritti. Allora la domanda è: a chi spetterà in questo sistema in cui i diritti ci sono dappertutto, ci sono a livello comunitario, ci sono a livello nazionale, ma possono esserci diversità di configurazione, a chi spetterà garantire in concreto i diritti, davanti a chi e in che modo io posso ottenere la tutela di questi diritti? E da questo punto di vista, diciamo, nei rapporti fra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, per noi italiani non ci sono dubbi nella risposta. Lo strumento di garanzia è sempre dato dal sistema giudiziario, perché il sistema giudiziario nazionale è anche sistema giudiziario europeo, comunitario, nel senso che i giudici nazionali sono giudici dell'ordinamento italiano, quindi che applicano l'ordinamento italiano, ma sono anche giudici dell'ordinamento comunitario, nel senso che gli stessi giudici sono facoltizzati ma obbligati ad applicare il diritto comunitario. Quindi diciamo i giudici, gli stessi giudici garantiscono i diritti in entrambi gli ordinamenti, gli stessi giudici. Non c'è un, non è che per il fatto di, che ci sia l'ordinamento comunitario e io abbia a che fare con l'ordinamento comunitario usufruirò, io cittadino usufruirò di una, di un canale, di uno strumento diverso di garanzia, non c'è una, nel nostro sistema non c'è tra l'altro un, uno strumento giuridico specifico di, per la tutela dei diritti fondamentali come c'è in quegli ordinamenti, Germania, Spagna o altri, in cui il cittadino dopo aver esperito i rimedi ordinari diciamo, può ancora ricorrere alla Corte Costituzionale per invocare una violazione dei suoi diritti fondamentali. Da noi non c'è questo. La Corte Costituzionale nostra non ha questo compito di giudicare su, su singole fattispecie, ma ha solo il compito di valutare le leggi oltre, e di risolvere i conflitti fra poteri o fra enti. Quindi da noi, da questo punto di vista, diciamo, la risposta a chi domanda, ma io da dove, attraverso quali strumenti sarò garantito nei miei diritti in questa convivenza, in questo intreccio di diversi ordinamenti, la risposta è pacifica, tu vai sempre davanti al giudice e a seconda del diritto che applicherà, il giudice applicherà le garanzie proprie dell'ordinamento nazionale o applicherà le garanzie proprie dell'ordinamento comunitario. Il problema però può essere quello di sapere attraverso quali strumenti io posso far valere eventuali violazioni dei limiti costituzionali che nell'uno e nell'altro ordinamento incontra la produzione delle norme ordinarie. Voglio dire, da noi ci sono, la Costituzione garantisce i diritti, ci sono le leggi e se io diciamo, ritengo che una certa legge, l'applicazione di una certa legge violi un mio diritto costituzionale, qual è la strada? Io vado davanti al giudice e al giudice chiedo di sollecitare la Corte Costituzionale a valutare se quella legge che dovrebbe applicare per caso viola la Costituzione, perché se viola la Costituzione io ho la pretesa che quella legge non mi venga applicata. Questo è il modo in cui si attua la garanzia costituzionale dei diritti. Io chiedo al giudice di applicare le leggi correttamente, ma se il giudice nell'applicare la legge si scontra in una legge che a sua volta non è conforme alla Costituzione, io chiedo che il giudice solleciti il giudice delle leggi, cioè la Corte Costituzionale, a valutare questa non conformità e quindi eventualmente a dichiarare incostituzionale la legge. E attraverso questa dichiarazione poi il giudice sarà, garantirà a me quella posizione concreta che è appunto di tutela del diritto che io ho chiesto. Questo è il meccanismo che riguarda l'ordinamento interno. E per quanto riguarda le norme del diritto comunitario, cioè se io, di fronte a una violazione di diritto ricorro al giudice e il giudice deve applicare le leggi, in quel caso deve applicare le norme comunitarie così come applica le leggi nazionali. Ma se una violazione di diritto discendesse da una norma comunitaria, cioè, che so, una direttiva, un regolamento dell'Unione, qual è la garanzia? Così, di fronte alla legge nazionale, la mia garanzia è, posso chiedere che il giudice si rivolga alla Corte Costituzionale, anzi, ho diritto di chiedere che il giudice si rivolga alla Corte Costituzionale per far dire alla Corte se quella legge è o non è incostituzionale. E di fronte a una norma comunitaria, se fosse un regolamento della Comunità Europea, un regolamento europeo che fosse contrastante con un diritto fondamentale, io non posso chiedere che la Corte Costituzionale sia investita della questione, perché la Corte Costituzionale giudica sulle leggi italiane, sulle leggi e solo sulle leggi italiane. No, la Corte non ha sempre rifiutato di farsi, di esercitare un sindacato di costituzionalità, comunque un sindacato sulle norme che appartengono a un altro ordinamento, sulle norme comunitarie. E quindi chi potrebbe pronunciarsi sul punto che una certa norma del diritto comunitario sia in contrasto con le norme costituzionali dello stesso ordinamento comunitario, quindi per esempio nel nostro caso con le norme della Carta dei diritti? La risposta qui è la Corte di giustizia della Comunità Europea, che adesso si chiamerà Corte di giustizia dell'Unione Europea secondo la dizione portata dal Trattato di Lisbona. Cioè noi avremo già, ma avremo in maniera più chiara a livello comunitario un meccanismo del tutto analogo a quello del controllo di costituzionalità, che riguarderà, così come il controllo sulle leggi interne dal punto di vista del rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti appartiene alla Corte Costituzionale, così il controllo sulle norme comunitarie, sulle norme europee, che in ipotesi attentino, comportino violazione di diritti fondamentali riconosciuti nell'ordinamento europeo, quindi nella Carta dei diritti dell'Unione Europea, il controllo spetterà, come spetta, alla Corte di Giustizia. Non posso chiedere alla Corte Costituzionale, non posso chiedere neanche al giudice comune interno, non è che posso andare davanti al giudice e dire magari che questo regolamento europeo tu non me lo devi applicare perché è contrastante con la Carta dei diritti dell'Unione Europea. Non è il giudice che potrebbe esercitare un sindacato sulla norma europea in nome delle norme pure europee di livello costituzionale, cioè della Carta dei diritti. Il giudice dovrebbe sollevare davanti alla Corte di Giustizia del Lussemburgo la questione cosiddetta pregiudiziale di validità dell'atto comunitario. Cioè, la Corte di Giustizia giudica su sollecitazione dei giudici nazionali, con due tipi di giudizio fondamentalmente, insomma, in questo caso, quando opera su sollecitazione dei giudici nazionali, su questione di interpretazione del diritto comunitario o su questione di validità degli atti della comunità. Ecco quindi che se per ipotesi ci fosse un atto della comunità, un regolamento, una direttiva, un qualsiasi atto normativo della comunità, la cui applicazione comporta, secondo i soggetti interessati, una violazione di un diritto fondamentale che l'ordinamento comunitario garantisce e oggi garantisce in modo espresso e ufficiale attraverso l'adozione della Carta dei diritti fondamentali, il controllo su questa non conformità eventuale dell'atto normativo secondario rispetto alle norme che tutelano i diritti sarebbe dato dalla Corte di Giustizia. Si dovrebbe cioè invocare dal giudice di sollevare la questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia per far dire che quel tale atto comunitario non è valido perché viola le norme della Carta dei diritti. Questo meccanismo era già in atto rispetto ai trattati, cioè quando la Corte di Giustizia poteva essere chiamata a giudicare sulla validità di un atto delle istituzioni europee per violazione dei trattati. I trattati però non comportavano in sé, non avevano in sé le norme sui diritti fondamentali. Oggi invece c'è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e quindi sarà possibile chiedere che il giudice sollevi una questione pregiudiziale per far valutare la validità dell'atto normativo comunitario, della direttiva, del regolamento, alla luce di queste norme sempre comunitarie ma che appartengono per così dire al livello costituzionale dell'Unione, cioè le norme della Carta dei diritti. Quindi diciamo, noi da questo punto di vista potremmo vedere un pieno parallelismo, così i diritti stanno a livello costituzionale, per noi e per l'Unione. Il cittadino è garantito attraverso il sistema della giurisdizione, ricorre al giudice per l'osservanza dei suoi diritti. Se però la violazione del diritto nascesse non da una cattiva applicazione delle leggi, ma nascesse dall'esistenza di una legge a sua volta violatrice in contrasto con i principi costituzionali, se si tratta del diritto nazionale vado alla Corte Costituzionale, se si tratta del diritto comunitario vado alla Corte di Giustizia. Lo stesso giudice è a questo punto lo smistatore, diciamo colui che dovrebbe smistare le questioni andando dall'uno o all'altro dei due giudici costituzionali. Potremmo dire che la Corte di Giustizia in effetti già è e comunque diventa ancora più chiaramente la Corte Costituzionale dell'Unione Europea. E però come si pone il problema dell'intreccio fra i due ordinamenti? Perché ordinamento comunitario e ordinamento interno sono appunto, secondo la nostra concezione, due ordinamenti separati, secondo i quali hanno la sua sfera di competenza, però si intrecciano fra di loro, nel senso poi che vi sono rapporti giuridici che ricadono nell'ambito di entrambi gli ordinamenti. Quindi questa coesistenza e questo intreccio come si risolvono? Come sappiamo, qui il principio fondamentale è quello del primato del diritto comunitario, cioè il diritto comunitario prevale su quello nazionale, è un po' la concezione federalistica, che per questa parte ha già avuto attuazione in Italia, per cui il diritto federale prevale sempre sul diritto degli Stati membri. La conseguenza è che se siamo nel campo coperto dal diritto comunitario, se siamo in quel campo, il diritto comunitario prevale. E allora la tutela dei diritti fondamentali dove la trovo? le trovo nelle norme costituzionali dell'ordinamento comunitario, quindi nella Carta dei diritti dell'Unione Europea, salvo eventualmente soltanto il caso del controlimite, appunto, ma che... E gli standard di tutela dei diritti saranno quelli assicurati dal diritto comunitario, quindi dalla Carta dei diritti dell'Unione Europea. Ora, se, come diciamo, si può ragionevolmente ritenere, gli standard di tutela assicurati dalla Carta dei diritti dell'Unione Europea sono adeguati, altrettanto adeguati quanto quelli della Costituzione nazionale, nulla questio. Io so soltanto di trovare tutela in quell'ordinamento anziché in un altro, e quindi il tema dei controlimiti avrebbe poco spazio per presentarsi in pratica. Però non si può escludere che in qualche caso si ponga un problema, nel senso che io possa constatare che una forma di tutela e lo standard di tutela a cui io posso accedere, che posso pretendere nei miei confronti nell'ambito dell'ordinamento comunitario, non sia in armonia con quello che potrei pretendere nell'ambito del diritto nazionale. Qua si porrebbe nuovamente il tema dei controlimiti di cui ho detto, almeno in astratto. Ma, diciamo, dal punto di vista dei meccanismi di tutela, la cosa sembrerebbe abbastanza chiara. Di fronte all'applicazione del diritto comunitario, io posso ricorrere al giudice in quanto applicatore del diritto comunitario e se vi è un problema di sindacare la validità, la conformità ai diritti fondamentali di atti normativi del diritto comunitario, il giudice è la Corte di giustizia. In altri termini, voglio dire, il giudice italiano, vediamo, davanti a cui il cittadino italiano ricorre, non potrebbe mai fare da solo questo controllo, dire ma io qua dovrei applicare un regolamento della Comunità Europea, però questo regolamento mi sembra in contrasto con la Carta di Nizza, con la Carta dei diritti, e quindi non lo applico. No, questo non potrebbe mai farlo. Così come il giudice italiano non può, di fronte a una legge nazionale, dire questa legge io dovrei applicarla, ma mi pare in contrasto con la Costituzione, quindi io non la applico. Il nostro sistema, insomma, prevede che vi sia un accentramento nel sindacato di costituzionalità degli atti normativi primari, diciamo, delle leggi. E così nel sistema comunitario il sindacato sulla costituzionalità, potremmo dire sempre sulla conformità alle norme superiori, in questo caso le norme sui diritti, delle norme comunitarie è accentrato. Non è un sindacato diffuso, è un sindacato accentrato. Questo bisogna sottolinearlo perché, come dirò tra un momento e come è noto, invece nel rapporto fra norme comunitarie e norme nazionali, diciamo, non costituzionali, il sindacato è diffuso, cioè ogni giudice giudica sulla prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale. Allora, mi pare che dobbiamo affermare questo principio. Il sindacato di costituzionalità, cioè la verifica di conformità degli atti normativi alle norme costituzionali dell'uno e dell'altro ordinamento, prevedono due paralleli sistemi accentrati. La Corte Costituzionale rimane il giudice unico competente a dire se una legge italiana è conforme o non è conforme alla Costituzione, la Corte di Giustizia rimane l'unico giudice chiamato a dire se una norma, una legge dell'Unione Europea è o non è conforme alla Costituzione dell'Unione Europea, quindi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dell'Unione. Sistema quindi accentrato. Sistema accentrato non vuol dire naturalmente che il giudice singolo non abbia il potere e il dovere di interpretare e applicare anche le norme costituzionali del rispettivo ordinamento. Voglio dire, cioè, così come da noi il giudice non può negare applicazione a una legge perché la ritenga incostituzionale, ma può solo investire la Corte Costituzionale, però ha il potere, anzi il dovere, nell'interpretare le leggi, di interpretarle e applicarle conformemente alla Costituzione, quindi fino a quando è possibile, fino a quando non si concluda che esiste una disarmonia, un contrasto insanabile fra legge e Costituzione, il giudice nell'applicare la legge deve sempre tenere presente che la legge va interpretata e applicata conformemente alla Costituzione. La stessa cosa nell'ordinamento comunitario. Il giudice che applica la norma comunitaria deve sapere che queste norme comunitarie, se sono soggette a diversa interpretazione, si devono interpretare e applicare secondo le norme costituzionali comunitarie, quindi in questo caso secondo le norme sui diritti. Quindi un pieno, potremmo dire un pieno parallelismo. Un primo problema nasce, può nascere quando ci si trovi in presenza di norme interne, quindi norme dell'ordinamento italiano per noi, ma che siano norme che operano nell'ambito del diritto comunitario, cioè che applicano il diritto comunitario, cioè ecco un caso di intreccio, cioè la separazione fra i due ordinamenti non è tale per cui ci sono rapporti contemplati solo dall'ordinamento comunitario e rapporti contemplati solo dall'ordinamento nazionale, ci sono continui intrecci, ci sono una serie di norme interne che però sono applicative del diritto comunitario, quindi che operano nell'ambito del diritto comunitario. In questo caso vale, come è noto, il principio del primato del diritto comunitario. Quindi, se io giudice sono in presenza di una norma comunitaria e di una norma interna che riguardano lo stesso oggetto e le due norme non sono tra di loro compatibili, io giudice do necessariamente prevalenza alla norma comunitaria, primato del diritto comunitario. Però questo quando si tratta di norme che regolano appunto per l'appunto lo stesso oggetto. Il campo dei diritti fondamentali non è che sia un oggetto diverso, nel senso che dire ma questa norma incide su un certo diritto fondamentale, quindi è una norma. I diritti fondamentali stanno per così dire alle teste di capitolo di ogni ordinamento, di quello comunitario e di quello nazionale. Allora, il problema dei diritti, del rispetto dei diritti si porrà quando io applico il diritto comunitario, quando io giudice applico il diritto interno attuativo di quello comunitario e quando applico il diritto interno tout court. Se applico il diritto interno tout court, ho il riferimento mio alla Costituzione e alla Corte Costituzionale. Se applico il diritto comunitario o il diritto interno applicativo di quello comunitario, il mio riferimento sarà necessariamente il diritto comunitario. Una problematica molto particolare si porrà nel caso del diritto, si è già posta e si porrà sempre più nel caso del diritto penale, perché il diritto penale è un tipico diritto nazionale, nel senso che fino ad oggi non esiste un diritto penale comunitario, esiste solo i reati e le pene, insomma, sono materia regolata solo dai codici penali degli stati membri. E quindi i principi costituzionali del diritto penale per noi sono i principi costituzionali della Costituzione. Non esiste ancora un diritto penale comunitario, non esistono cioè norme dell'Unione Europea che stabiliscono reati e pene. Se ci sarà in futuro un diritto penale di questo genere, avremo anche in quel campo una separazione. Ma oggi come oggi, l'applicazione di pene avviene sempre sulla base del diritto nazionale. Il problema è quando il diritto penale nazionale interferisce in un campo oggetto di diritto comunitario, quindi quando il diritto penale nazionale può essere non conforme al diritto comunitario. Questo è uno dei temi, non lo tratto a fondo perché non ci sarebbe il tempo, ma è uno dei temi più ardui, perché non essendoci un diritto penale comunitario, ma essendoci dei principi comunitari e delle norme comunitarie che vanno ad incidere anche nel campo trattato da certe nostre norme penali, si pone il problema del rapporto e dell'eventuale contrasto. Per esempio, si è posto quando si è sollevato il problema se la nostra legislazione in materia di falso in bilancio, quella più recente, diciamo, quella che ha ridotto il livello di punibilità, diciamo, la sanzionabilità delle norme in materia di falso in bilancio, non fosse in contrasto con i principi comunitari che riguardavano per l'appunto la veridicità dei bilanci societari. E quindi si è posto questo problema: se questa norma nostra penale non rispetta gli standard comunitari, cioè non punisce abbastanza, per così dire, si può trovare un rimedio, si può invocarne il superamento, diciamo così, in nome del diritto comunitario? Fino adesso la risposta è stata no, perché essendo trattandosi di diritto penale, qua la base della punizione, della sanzione penale non può che essere la legge nazionale, il principio di stretta legalità del diritto penale, e quindi o questa normativa nazionale risulta contrastante con la Costituzione, e allora si può, ma se risulta in ipotesi contrastante con obblighi comunitari, ma non con una normativa penale comunitaria che non esiste, non ci può essere un sindacato. Cioè il sindacato su queste norme interne attuative del diritto comunitario, ma che lo attuano male, per così dire, cioè che non sanzionano abbastanza, dovrebbe essere un sindacato di costituzionalità, che si potrebbe immaginare fondato sull'obbligo che l'Italia ha di rispettare il diritto comunitario, ma mentre normalmente questo obbligo, diciamo, gioca automaticamente, nel senso che è il giudice che dice che applica o non applica la norma nazionale a seconda che essa sia o non sia conforme al diritto comunitario, in questo caso, trattandosi di diritto penale, non essendovi un diritto penale comunitario e non potendo, diciamo, far discendere dal diritto comunitario conseguenze aggravatrici del trattamento penale previsto dalla norma nazionale, l'unico rimedio sarebbe dire, invocare dalla Corte Costituzionale una pronuncia che sancisca che quella norma penale è incostituzionale perché non è adeguata agli obblighi che dall'appartenenza all'Unione Europea discendono a carico dello Stato italiano. Questa infatti è la strada che fino adesso è stata seguita, ma che presenta, come è evidente, molti problemi. Ecco, fuori dal campo in cui vale il diritto comunitario, quindi fuori dal campo rimesso alle istituzioni della comunità, è pensabile un sindacato sulle leggi interne italiane alla luce di norme come quelle della Carta dei diritti dell'Unione, norme costituzionali non nostre ma dell'Unione Europea sui diritti? Certamente no, direi, così, come risposta. Anche se qua bisogna tener conto di una tendenza manifestatasi nella nostra giurisprudenza, che siamo stato oggetto di discussione proprio negli anni più recenti, cioè nella nostra giurisprudenza nazionale, talvolta i giudici hanno ritenuto che poiché il diritto comunitario prevale su quello nazionale, quindi e poiché questa prevalenza si attua attraverso la diretta applicazione da parte del giudice del diritto comunitario, a preferenza di quello nazionale, quindi la diretta non applicazione del diritto nazionale che risulti incompatibile col diritto comunitario, alcuni filoni della giurisprudenza ritenevano che laddove si fosse in presenza di una legge nazionale incompatibile con diritti considerati tutelati nell'ordinamento comunitario, lì il giudice fosse abilitato a non applicare direttamente le leggi nazionali incompatibili, senza passare attraverso la Corte Costituzionale. Cioè l'idea era, c'è questo, il rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale è un rapporto di prevalenza del primo sul secondo. Se c'è un diritto nazionale che contrasta con i principi generalissimi del diritto comunitario, come quelli in materia di diritti, io giudice faccio questa stessa operazione, confronto e nel caso di incompatibilità non applico la legge nazionale. Questo meccanismo però, diciamo, trascurava il fatto che il diritto comunitario ha una sua precisa ambito di applicazione e non copre tutto l'ambito coperto dal diritto nazionale. Rimane una suddivisione di campi. E allora non è corretto che il giudice nazionale pensi di poter applicare, di poter ignorare la legge nazionale alla luce di principi costituzionali che sono propri di un altro ordinamento, cioè dell'ordinamento comunitario. Resta il fatto che distinguere quando siamo in un campo e quando siamo nell'altro può presentare in pratica delle difficoltà, cioè se siamo in un campo attribuito al diritto comunitario o no, e qua è un problema su cui volta a volta si potrà anche discutere. Alla fine, diciamo, l'ultima parola qua dovrebbe avere la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nell'interpretare i trattati, nel dire se un certo ambito di rapporti appartiene o non appartiene al sistema comunitario. Voglio dedicare un'ultima parte della mia esposizione, scusandomi se diciamo, forse non risulta del tutto, sempre del tutto chiaro, perché sono questioni abbastanza complicate, ad un terzo protagonista, cioè la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU, che a sua volta contiene, anzi, riguarda soltanto un sistema di protezione dei diritti fondamentali. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è la Convenzione per la tutela dei diritti fondamentali, ed è l'atto internazionale attraverso cui lo Stato italiano, come gli altri Stati membri, si sono impegnati a garantire certi diritti. La CEDU, la Convenzione Europea, è una convenzione internazionale, quindi comporta per lo Stato degli obblighi, come tutti i trattati internazionali. Secondo la tesi tradizionale nel nostro ordinamento, questi obblighi erano obblighi internazionali che entrano a far parte dell'ordine interno, dell'ordinamento interno, attraverso l'ordine di esecuzione, cioè attraverso le leggi che danno esecuzione al trattato. In questo caso la legge che ha dato esecuzione alla Convenzione Europea, che è una legge ordinaria, e quindi secondo la nostra tradizionale impostazione gli obblighi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti avevano nel nostro sistema una collocazione a livello della legislazione ordinaria, non a livello della legislazione costituzionale, cioè non si poteva invocare la CEDU per contestare una legge nazionale, perché le leggi nazionali sono subordinate alla Costituzione, mentre la CEDU era un trattato internazionale entrato a far parte del nostro sistema come legge ordinaria. Le cose sono cambiate da quando, con la riforma del 2001 della Costituzione, è entrato a far parte della nostra Costituzione quella norma, l'articolo 117, primo comma, in cui si dice che le leggi ordinarie italiane sono soggette, oltre che al rispetto della Costituzione, anche al rispetto dei trattati internazionali. Quindi gli obblighi che discendono dai trattati internazionali assumono un valore vincolante per il legislatore nazionale ordinario, non alla stessa stregua, ma diciamo un po' come le norme costituzionali, cioè la Costituzione vuole che le leggi nazionali ordinarie siano conformi anche ai trattati internazionali. Fra i trattati internazionali c'è anche la Convenzione Europea dei Diritti, quindi a questo punto il rispetto della Convenzione Europea dei Diritti diventa per il legislatore nazionale ordinario un vincolo da rispettare. Quindi se il legislatore nazionale ordinario non rispetta questo vincolo, cioè viola la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, viola la Costituzione, cioè perché è contrario all'articolo 117 della Costituzione. Questo ragionamento è stato esplicitamente fatto dalla Corte Costituzionale in sentenze della fine del 2007, che hanno chiarito quindi che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che fino adesso era stata trattata come fosse una legge ordinaria, diventa invece vincolante sopra il legislatore ordinario. Ciò che il legislatore ordinario deve rispettare anche la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, non solo la Costituzione, ma anche la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Poi se ci fosse contrasto, dice la Corte Costituzionale, prevale la Costituzione se ci fosse contrasto, ma se non c'è contrasto, il legislatore nazionale ordinario deve rispettare la Convenzione. Quindi se una legge nazionale è in contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, è indirettamente in contrasto con la Costituzione, e quindi bisogna provocarne la caducazione, bisogna sollevare davanti alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità per violazione dell'articolo 117 della Costituzione e ottenerne la caducazione. Quindi la Convenzione Europea, diciamo, entra nel nostro sistema di garanzia con un rango, con una posizione che non è la stessa della Costituzione, ma ha gli stessi effetti nei confronti della legislazione ordinaria. Una legge ordinaria oggi è vincolata a rispettare i diritti così come formulati nella Costituzione, garantiti nella Costituzione, ma anche i diritti così come garantiti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che vuol dire anche come sono garantiti, come sono configurati nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è la Corte a cui la Convenzione attribuisce il compito di interpretare e applicare la Convenzione medesima. Cosa cambia adesso con col Trattato di Lisbona e quindi con la... Da questo punto di vista, dal nostro punto di vista interno, non cambia niente. Può cambiare qualche cosa nel senso che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo il Trattato di Lisbona, non sarà solo più una convenzione da cui si ricavano diritti che, diciamo, appartengono alla tradizione costituzionale comune degli Stati membri e quindi, diciamo, che vanno a configurare anche l'ordinamento costituzionale del... Ma la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sarà uno strumento internazionale a cui l'Unione Europea aderirà, cioè l'Unione Europea diventerà un membro della Convenzione, questo è previsto, non è ancora così, dovrà avvenire questa adesione, perché essendo un trattato internazionale, l'accesso di un nuovo membro esige un certo procedimento di accessione. L'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è una delle previsioni, delle novità previste, quella seconda novità prevista dal Trattato di Lisbona. Allora, mettiamoci dal punto di vista di questa Convenzione Europea e quindi della garanzia dei diritti che in essa si attua e del modo in cui queste garanzie si esplicano davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Cioè, oggi noi cosa abbiamo? Io, cittadino, so che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è vincolante per lo Stato italiano, quindi quando vado davanti al giudice posso invocare la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, posso anche invocarla se constato che una certa legge italiana è in contrasto con la Convenzione Europea, perché posso dire questa è norma italiana, tu giudice la devi contestare, devi andare alla Corte Costituzionale e chiedere che la dichiari incostituzionale perché viola la Convenzione Europea. Ma nei confronti del diritto comunitario invece questo non, fino adesso non era, cioè la Convenzione Europea era indirettamente rilevante nell'ordinamento comunitario, ma non era direttamente, diventerebbe invece direttamente rilevante anche nell'ordinamento comunitario nel momento in cui l'Unione Europea aderirà alla Convenzione, diventerà un membro della Convenzione. E a quel punto il livello di garanzia, di protezione dei diritti fondamentali, che discende da questa convenzione internazionale, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretata e applicata dalla Corte Europea di Strasburgo, diventerà, diciamo, lo standard minimo comune anche ai due ordinamenti, quello nazionale, e già lo è per via articolo 117 della Costituzione, e quello comunitario, perché l'Unione Europea non sarà più un ordinamento estraneo al sistema convenzionale, sarà un ordinamento a sua volta vincolato al rispetto degli obblighi che derivano dalla Convenzione Europea. E quindi potremmo concludere? Che a quel punto lo standard di protezione dei diritti fondamentali che discende dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo diventerà il vero standard minimo europeo, che dovrà essere rispettato sia dai legislatori nazionali, sia dagli stati membri della Convenzione, sia dal legislatore comunitario, perché a sua volta il legislatore comunitario fa parte di un ordinamento che aderirà alla Convenzione, che avrà assunto quegli obblighi. Quindi potremmo dire si unifica il sistema, il livello di protezione della Convenzione Europea diventa il livello minimo che vale per tutti. Questo probabilmente porterà ad un migliore chiarimento di ciò che accade quando una violazione di diritti previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti discende da atti che sono in qualche modo condizionati dall'ordinamento comunitario. Voglio dire, oggi, in cui l'Unione è estranea alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, io, cittadino, mi trovo di fronte a un atto di autorità che ritengo violi un mio diritto garantito dalla Convenzione, esperisco i miei rimedi interni, vado dal giudice, dico no, tu devi applicare la Convenzione, sollevo questioni di costituzionalità, eccetera, eccetera, ma alla fine se non ho soddisfazione io posso fare ricorso a Strasburgo, alla Corte Europea di Strasburgo, e dire l'Italia ha violato questo mio diritto. perché questo atto dell'autorità italiana è in contrasto con la come si dica la Corte che... Ecco, oggi si è posto il problema di cosa succede se io lamento una violazione di diritti garantiti dalla Convenzione, che però discende da un meccanismo, da un procedimento, da atti che coinvolgono l'ordinamento comunitario. Facciamo un esempio concreto. L'esempio concreto è quello di una decisione abbastanza nota del 2005 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in cui si lamentava, era successo questo, per una le autorità irlandesi avevano sequestrato un aeromobile di proprietà di una società, meglio, noleggiato da una società turca, lo avevano sequestrato perché il proprietario dell'aereo, che era stato noleggiato, era una società jugoslava, e nei confronti della Jugoslavia c'era un meccanismo di sanzioni previste dall'ONU e applicate dall'Unione Europea con un suo regolamento, che imponeva di bloccare i beni di questi proprietari jugoslavi. E questa società, che noleggiava gli aerei, riteneva di essere stata danneggiata da questo sequestro, e va alla Corte di Strasburgo e dice: ma io qua vedo che è stato violato il mio diritto di proprietà, così come garantito dalla Convenzione Europea dei Diritti. È stato violato dalle autorità irlandesi, che hanno bloccato il mio aereo. E la Corte Europea qui ha fatto uno strano ragionamento, devo dire, perché ha detto: ma qua però le autorità irlandesi hanno agito in esecuzione di un obbligo che discendeva direttamente da un regolamento comunitario, non avevano spazio, non avevano scelta. Il regolamento europeo gli imponeva di sequestrare l'aereo. Quindi, qual è il problema? La Corte Europea di Strasburgo ha ragionato così: nell'ordinamento comunitario, che è un ordinamento esterno e non collegato alla Convenzione, perché appunto l'Unione non fa parte della Convenzione, c'è però un sistema di tutela dei diritti, ci sono delle corti, c'è la Corte di Giustizia, e quindi io valuto che ci sia una sorta di equivalenza fra il sistema di garanzia dei diritti che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo comporta per tutti gli Stati membri e il sistema di protezione dei diritti che si attua, che vale nell'ambito dell'ordinamento comunitario. Essendovi questa equivalenza, dico che non c'è violazione. Questa sentenza, una nota sentenza, si chiama Bosphorus, del nome della società, ha suscitato molte perplessità, perché in realtà dal punto di vista della Convenzione Europea dire che uno Stato sfugge alla valutazione concreta del suo comportamento in rapporto alla Convenzione solo perché ha potuto dire che ha agito in virtù di un obbligo che discendeva da un altro ordinamento, cioè da quello comunitario, sembrerebbe una contraddizione, perché o lo Stato è obbligato a rispettare la Convenzione sempre, come può addurre come propria giustificazione quello di aver eseguito un obbligo discendente dall'ordinamento comunitario. Questa sentenza, direi, rappresenta una sorta di compromesso e rappresenta una soluzione insoddisfacente. Dal punto di vista dell'ordinamento della Convenzione Europea, il giorno che l'Unione avrà aderito alla Convenzione Europea non si potrà più ragionare così, perché in quel giorno l'atto di autorità che comporta l'eventuale violazione dei diritti, sia che discenda dall'ordinamento nazionale, sia che discenda dall'ordinamento comunitario, sarà ugualmente soggetto al controllo sulla base della Convenzione Europea. Quindi la Corte di Strasburgo dovrà dire se in concreto l'atto di autorità ha violato il diritto o invece lo ha rispettato. Potrà riconoscere i margini che ciascun ordinamento degli Stati membri e quindi anche dell'Unione conserva nel regolare i diritti, eccetera. Ma la valutazione se vi è stata in quel caso, in quella circostanza, vi è stata una violazione del diritto come garantito dalla Convenzione o no, non potrà sfuggire, non potrà essere omessa dalla Corte di Strasburgo. Dovrà insomma trattare anche gli atti derivanti dall'ordinamento comunitario allo stesso modo in cui tratta gli atti derivanti dagli ordinamenti nazionali. Quindi il singolo che si riterrà leso da un atto di autorità, di qualunque autorità, che discenda dall'ordinamento comunitario, avrà lo stesso livello di protezione che ha oggi di fronte agli atti di autorità che discendono dagli ordinamenti nazionali degli stati membri della Convenzione. Direi che questo dovremmo arrivare a dire che la adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo chiarirà questo equivoco, renderà unitario il livello di tutela dei diritti fondamentali in Europa. E cosa vorrà dire questo? Che alla fine la Corte di Strasburgo prevale anche sulla Corte del Lussemburgo come prevale sulle corti nazionali? Sì, dovrà dire questo, perché il sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è un sistema appunto internazionale in cui tutti le entità statali o non statali aderenti si impegnano a rispettare gli stessi obblighi. E allora se questi diritti valgono per tutti nell'ambito di questo sistema, domani l'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione comporterà che lo standard non potrà che essere lo stesso. Gli stati che agiscono e che pongono in essere atti eventualmente in violazione dei diritti non potranno più, come dire, nascondersi dietro il fatto di applicare un diritto esterno, un diritto comunitario, ma dovranno rispondere della conformità dei loro atti alla Convenzione Europea allo stesso modo, sia quando operano come stati nazionali nell'ambito del loro diritto nazionale, sia quando operino come membri dell'Unione Europea e quindi come applicatori delle norme del diritto comunitario. Quindi questo fatto dell'adesione dell'Unione alla Convenzione porterà un chiarimento da un punto di vista, è una certa semplificazione, dovrebbe portare una certa semplificazione. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee resterà la Corte Suprema dell'ordinamento comunitario, resterà la Corte unica chiamata a sindacare la validità degli atti comunitari in rapporto alle norme costituzionali del diritto comunitario. Ma il controllo esterno della Corte di Strasburgo varrà allo stesso modo nei confronti dell'uno e dell'altro ordinamento. In altri termini, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si collocherà nel sistema della Convenzione Europea allo stesso rango, allo stesso posto dove si collocano oggi le corti nazionali. Sarà la Corte nazionale di questa supernazione che è l'Unione Europea. Così come tra corti nazionali e Corte di Strasburgo ci possono essere, disarmonie, eventuali anche conflitti, ma alla fine il sistema è che l'ultima parola ce l'ha la Corte di Strasburgo, perché è ad essa che spetta dire se i diritti garantiti dalla Convenzione sono o non sono stati rispettati in concreto, in quella fattispecie concreta. Allo stesso modo questo varrà anche nei confronti del diritto comunitario e quindi di tutte le pronunce anche giurisdizionali prese nell'ambito dell'ordinamento comunitario, ivi comprese le pronunce della Corte di Giustizia. Questa mi sembrerebbe la conclusione da trarre. Vedremo poi se gli sviluppi concreti della giurisprudenza saranno in questo senso, che può essere un senso di conflitti o un senso di migliore coordinamento, di migliore armonizzazione, ma che fondamentalmente credo darà luogo ad una protezione uniforme dei diritti fondamentali alla luce di principi che sempre più appaiono principi comuni indipendentemente dalla loro traduzione in quell'ordinamento nazionale o sovranazionale, appaiono sempre più principi comuni, quindi principi destinati ad avere una validità in qualche modo universale. Vi ringrazio.